L'economia canaglia è quell'economia che si è sganciata dal controllo della politica e si muove indipendentemente dalle legislazioni, sia nazionali che internazionali. Canaglia perché in effetti non è solamente economia criminale, ma anche economia che si infila tra una legislazione e l'altra, sfruttando appunto il fenomeno della globalizzazione. Già dalle prime pagine si legge un'associazione che in qualche modo ci può un po' spaventare: democrazia e schiavitù. Qual è il legame? Ma questo devo dire, ho iniziato proprio da questo, perché con la caduta del muro di Berlino vediamo che il numero dei paesi democratici aumenta, infatti salgono da 60 fino a 118. Nello stesso tempo vediamo che aumenta il numero degli schiavi nel mondo. E parliamo di schiavi, non di individui non schiavizzati da potenze straniere, ma proprio da individui schiavizzati da propri connazionali. E questo è vero in tutto il mondo, in particolare nell'Europa dell'Est. Infatti il libro inizia con la storia delle schiave del sesso slave che dopo la caduta del muro di Berlino vengono vendute sul mercato dell'Europa occidentale. Non c'è il rischio in qualche modo di comunicare si stava meglio quando si stava peggio? Ma in un certo senso per alcuni soggetti, in particolare appunto per le donne slave, sicuramente si stava meglio sotto il regime comunista, però il messaggio diciamo finale è che il progresso non può essere fermato, che quindi l'economia canaglia è in un certo senso parte del progresso. Nei momenti di grande transizione l'economia canaglia riesce alla ribalta e praticamente guida l'economia, però nel lungo periodo la politica, se la storia ha qualcosa da insegnarci, riconquista sempre l'economia. Quindi il messaggio è un messaggio positivo. Dunque, in un paese come il nostro, l'Italia, in cui diciamo si coltiva la dietrologia, si tende sempre a individuare un manovratore. Questa forma di economia ha un manovratore e se ce l'ha dove? No, in realtà questa forma di economia si è formata, come si è formata anche nel passato, dalla concomitanza di vari fattori. Quindi nel caso specifico della caduta del muro di Berlino, la fine del regime comunista e l'avvento del capitalismo globalizzato hanno creato queste forze canaglia, però non esiste una volontà, quindi non è una responsabilità dell'Occidente. Chi ha buttato giù quel muro, chi praticamente ha voluto ricreare una Germania unita, ma anche un sistema basato sul principio della democrazia, non sapeva che le conseguenze di questo processo sarebbero state appunto il ritorno dell'economia canaglia. Tra i protagonisti di questo studio c'è una famiglia che rappresenta la grande crisi della middle class, una famiglia che, conti alla mano, progressivamente si impoverisce. Sì, questi sono i signori Jones e questo è un altro fenomeno in un certo senso paradossale dell'economia canaglia, che oggi come oggi la famiglia media, ma non solo americana, ma la famiglia media direi occidentale, ha in termini di reddito meno soldi di quanti ne aveva negli anni 70. E questo perché? Proprio perché le forze canaglie progressivamente hanno eroso il potere d'acquisto, quindi la possibilità di spendere della classe media. Questo è anche un tempo di pirati, un tempo in cui chi è disposto e senza scrupoli prospera. Sì, la pirateria è una delle attività diciamo principali canaglia. Tra l'altro uno degli aspetti credo che di grande attualità oggi in Italia è i pirati dei rifiuti che portano fuori dai paesi occidentali i rifiuti tossici. L'Europa, per esempio, produce un 47% dei rifiuti totali è tossico, che è tossico nel senso che deriva da telefoni rotti, da computer e via dicendo, e la maggior parte di questa quantità di rifiuti finisce in Africa o nell'Asia del Sud, dove questi pirati praticamente portano questi carici velenosi e o li buttano in mare o addirittura li seppelliscono nei vari paesi. In questo suo saggio c'è spazio per Second Life e altre frontiere. Per molti Second Life è un passatempo. Nel suo saggio cambia prospettiva, diventa un luogo da cui magari osservare anche le tendenze future. Sì, Second Life in un certo senso, come molti di questi siti di vita alternativa, offrono all'individuo la possibilità di scappare, ecco, dalla realtà quotidiana, e lì noi vediamo in un certo senso alcuni dei temi fondamentali che, appunto, secondo la mia analisi, saranno anche i temi fondamentali del nostro mondo. Ripeto, ci troviamo in una fase di grande transizione, quindi tutto ciò avviene perché il mondo cambia. C'è una coppia tra le tante citazioni che ho trovato interessante: Berlusconi-Chavez, due figure che, insomma, di primo acchito non potrebbero essere più distanti, che invece lei associa intorno a un capitolo definito il populismo dello Stato mercato. Sì, questo è un parallelo che devo dire ho trovato molto molto interessante, nel senso come oggi come oggi il politico ha reinventato la politica, nel senso la politica si è completamente svuotata dei contenuti reali, e quindi la politica non è più una battaglia di idee, ma è diventata un modo di fare marketing. Attraverso questo marketing i politici hanno dovuto inventarsi dei miti, e il mito, diciamo, di Berlusconi è il mito del calcio. E quello di Chavez, che conosciamo meno? E quello di Chavez è il mito della musica. I venezuelani adorano la musica come gli italiani adorano il calcio, ma tutti i tipi di musica, quindi dalla salsa al rap allo ska, e quindi ha utilizzato la musica come diciamo mito fondamentale politico per legittimare la propria autorità. E io trovo che sia geniale questo tipo di approccio nei confronti della politica. Chiaramente è pericolosissimo, perché dietro questa mitologia non c'è assolutamente niente. Dietro il mito niente, insomma, parafrasando un film degli anni 90. Se dovessimo estenderlo alle elezioni americane... Ecco, e invece negli Stati Uniti sta succedendo esattamente l'opposto. Negli Stati Uniti abbiamo un soggetto come Barack Obama che ha abbandonato quel tipo di mitologia, quindi non fa marketing del nulla, ma invece vuole tornare ai valori fondamentali dei padri fondatori. E quali sono i valori fondamentali dei padri fondatori americani? L'America agli americani, quindi rifiuto completo del ruolo degli Stati Uniti come poliziotto del mondo, ritorno alla protezione del cittadino, quindi ai signori Jones del mio libro, aiutiamo la classe media a riprendersi e concentriamoci sul nostro paese. Io credo che questo è un messaggio di grandissima rottura, oggi come oggi, in tutto il mondo occidentale, perché in un certo senso questo è il primo politico che in effetti sta parlando veramente di politica, come doveva essere la politica.